poi c'è anche sulla mansarda, c'è il posto, c'hanno un posto per ogni condomino dove mettersi la roba. Allora già, a voglia. Le garage, ma con l'uso per mettersi la roba. Norma è quella a casa. L'hai vista? Non ci è venuto. Mai. Ho detto che anche la casa sarà grande, o no? Sì, sì, è grande, è grande. Mi pare che sia 130 metri quadri, 150, non lo ricordo. È una sala un bel grande, c'ha tutte le stanze un bel grandi. Proprio fatta senza economia. Quella che ti piacerebbe a te, o no? Ma io sto bene anche qua, non ho nessun problema. Cioè, ci sto bene, magari una stanzetta in più ci sarebbe andata bene a fare uno sgabuzzino. Ciao, ho detto che ti sarebbe piaciuto una casa così grande. A me non ci è stato più comodo tu anche. Beh, certamente che sì. Ah, dimenticavo, hanno anche lo sgabuzzino. Caspita, allora è proprio bella bella. Hanno uno sgabuzzino che è una stanzina là, in fondo all'andito, non rimane, alla fine. Poi c'hanno sopra la mansarda e sotto la cantina, quindi immagina di dubbio il garage, alla fine. Quella idea progettata il mio suocero. La casa? Il palazzo, quello della polizia, capito? Sono tutti poliziotti che abitano. Vabbè, sono tutti musici, poveracci. È durato solo mio suocero, e mi pare che non venne altro, signor Musso, è morto l'anno scorso, e mi pare che non venne altro, sono tutti musici, penso. Ah no, signor Pia, si chiama. Beh, fatto sta che sono, lui ha riunito, ha formato una cooperativa di polizia, e hanno fatto questo palazzo di poliziotti, capito? Si hanno fatto il palazzo tutti insieme, hanno progettato insieme al geometra e all'ingegnere come lo volevano, e si hanno fatto tutti gli appartamenti grandi. Bene, fatto bene. L'appartamento vuole grande, non piccolo. Vuole grande quando c'è molta gente, certo. Non tu, non tutti ce l'hanno grande. Io sono grande a Sassa di Vecchio per fare certi interventi. Mica ho visto in una stanza c'era la cucina, diretta a castello, tutto in chivia, e lo vado. No, è bruttissima una cosa del genere. Lo so, ma se siete che non se lo può permettere, cosa fate? So. Già mi lamento che è troppo piccola questa casa. E voi siete anche in tanti, quanti siete voi? Siete due, quattro, cinque siete. Siamo in cinque. Anche voi siete, quanto siete in quattro? Eravamo in cinque anche noi, quando papà c'era eravamo in cinque. È vero, adesso siete in quattro. K? Cinco. Noi siamo giusti giusti, dai, siamo perfettamente. La sala non è piccola, la nostra, la cucina nemmeno, sono divisa bene la casa, poi abbiamo anche il doppio servizio. Ero quasi intenzionato a fare il doppio servizio, a fare uno sgabuzzino. Poi ci ho ripensato, perché ho detto magari quando si va a scuola, ecco, vanno a scuola ragazzi, cosa deve andare in mare, preparati in fretta per andare al lavoro, è un casino fare la fila, io me lo ricordo a casa di mamma, tutti in fila aspettando. E gaffa. Io, è poco, è un casino sì, fai bene a lasciartelo, soprattutto se ti capita che curso, gnogno. Che ci ho fatto il bagno! Poi ne abbiamo uno solo, ma è un casino. Lo so. Ma noi ne abbiamo uno dove c'è, vabbè, proprio il bagno, perché c'è anche la vasca da bagno, il bidet, tutto quanto. Nell'altro invece c'è, avevamo messo inizialmente, avevamo tolto il lavandino, avevamo fatto la vasca per lavare la roba, sì. se lui mi dava anche i capelli, perché a me la larga si poteva fare. Facevo anche il bagnatini, insomma, era grande. Poi mia moglie, rialzando lo scrivizio, di fare il bagno nuovo. Allora abbiamo tolto la vasca da bagno, ci abbiamo messo il mobiletto di legno con lavandino, la specchiera, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto bellino. Avete fatto bene. Oh, tanto guardo. Poi chiedo scusa a mamma. Perché guardi, così è affettuoso. È un coccolone. Scusami, non viene qua da papà. È un bel bravo, Che pecchetto. Che fa? E quindi l'avete fatto nuovo, l'altro rimane più piccolo, rimane. No, più grande. E ne avete uno grande e uno piccolo. Il servizio rimane un po' più piccolo, ma non assai, no? forse la stessa misura, l'altro non è piccolo, è solo che è disposto diversamente, lì c'è la lavatrice, c'è quella roba lì. Io mi ricordo che ci sono andato poco a casa tua, però una volta che sono entrato in bagno, forse sono entrato in quello grande, ho visto anche quello piccolo, mi sembrava molto più piccolo. No, diciamo che uno è quadrato, l'altro è rettangolare, ma più o meno, forse come larghezza. Poi potevo fare una cosa, la potevo fare anche più grande. E visto che all'entrata c'è quella rientrata dove c'è l'acquario, quella lì la mettevo a livello della porta e ingrandivo il bagno. Come? Potevo fare, l'ha fatto quello di giù se l'ha fatto così. Vabbè, chiamava la pippina che cosa, ingrandire il bagno. La pippina deve entrare a fare le cose e basta. No, anche tu, il bagno ci sono le mensoline, su dove metto la carta igienica, quella roba lì così. La carta igienica, ti rimbarazzo, ecco. Sono delle mensoline al di sopra di tutto che non si vede. Però ci sono. La pippina deve entrare a farti la doccia, per dire, deve entrare a fare i bisogni, cioè. È abbastanza, va abbastanza bene, va, hai capito? Io il bagno prima c'avevo il tramezzo, tra il lavandino e il bagno proprio c'era una porta, praticamente ti isolava la zona bagno al lavandino, ma faceva antibagno e bagno. E però toglieva un beriluccio questa porta e questo muro che c'era, l'ho fatta buttare giù, la porta l'ho tolta e ho fatto tutto un bagno, ma sai che non si entra in più. Beh, già lo credo io. Cosa fa questa cagata? Cosa? E hanno fatto questa cosa qua? Vabbè, il progetto era così. Il progetto era fatta così. Poi se tu la vuoi modificare, te la modifichi. Anche in costruzione la puoi modificare. Puoi chiedere di farlo diversamente, invece che fare in un modo, fare un errato. Questo qui l'aveva fatta direttamente costruire così, col muretto che affiancava la porta senza avere quella rientranza. Perché deve essere che avrebbe avuto un po' il geometra che ha fatto lui. A me sta bene, quella rientranza sta bene perché lì ci ho messo l'acquario. Oh, quando ti ha fatto un coso, come ti si dice? Che bella Isaianna. Ah no, no, l'ha fatta tutti quella lì. Molta gente ce l'ha ancora. Ma non è bello, tu lavandino da una parte, cura Ianna, cioè no, andava bene. Ma per dire, se tu vuoi andare in bagno, entri in bagno, se uno che si vuole lavare si può lavare le mani, lo stesso perché te la porta chiusa mica di fare. Vabbè, ma è meglio tutto unico. Infatti sono fatto così, va per questione di spazi anche. Il muro maestro l'ho lasciato così sopra, stasera avrei voluto fare un'arcata, ma poi l'ho lasciato così, l'ho lasciato dritto. E il resto l'ho buttato giù, dove mancavano le, dove c'era la parte di giù, ho messo le mattone nuove, tanto ce l'avevo del ricambio, e poi tutto nel placcaccio. Kappa. Va dove? No, ho sentito. Chi? Chi c'ha lo che? Vabbè, comunale. Buonasera a tutti. Lo chiamo di casa, mi faccio un po' io. Mi faccio un po' io per vedere solo i tre sardi della Cadoccia. Tre sardi ci sono. Cosa hai detto? E tu, come confermi? Hai caricato tu questa cosa, è di solito interessante. Non lo so, non la veloce. Non lo so, non lo so, diremo, ci bisogna, ma se no c'è la linea di luce, te la devo. Ah, sto scendendo da solo. Però non lo dico. La verità non sapevo niente, c'è il giornale ancora in macchina, avevo minerato a casa, perché stavo leggendo la gazzetta un pezzo, poi boh, non l'ho più letto, poi ci mi sono messo a tingere. Cioè. A tingere? Come a tingere? In ferie sì, perché? Ma sono in ferie. Tu cosa stai facendo oggi? Tendo. Possiamo arrivare a Baraura, non si dunque, si schiaccia e poi parla. So che stavo tingendo. Che cosa? Muro. Ah, state pitturando la casa? Con la cucina ho fatto. Cappaga, poi ci vuole una rinfrescata ogni anno. Mio padre già la faceva sempre su comandrone, ogni due anni, ogni tre anni, boh. Metti pittura buona, già dura. Sì, c'è buona quella che metti, basta dare una mano e copri tutto, dico la copretti proprio... quella che ha le palme disegnate, l'ho presa da Mascia. Cana? Eh? No, passo buona di senza vederne. No, io stavo usato work, yo, work, boh, una cosa del genere, cazzo, diciamo. Comunque la fanno qua per da niente, dai. Che valore un straniero? Non lo so. E comunque è roba buona. Già lo so. Ah, ce ne sono tante di pitture buone, che ne bacio una mano e copre tutto. Io sono da quella città di chiuso di sopra, che mi ha imbruttato il muro, e a fare la pittura mi rubisco che mi deve pitturare. So che ancora la città, ti voglio vedere cosa faccio. Non te lo vuoi tu, Mari, vai. Ma no, questo è il principio, anche la prossima volta... se non me lo fare con l'avvocato, ma non c'è tanto perché è un pezzo là. Pezzo di un pareggi 5 litri di gozo, 15 euro, infatti vaffanculo. E tanto, ma non è quello lì, no? La pittura ce l'ho anche a casa, è una questione di principio. Quando uno fa un danno deve anche rimediare, o no? Lo so. Tu te l'ha fatta pagare Mascia. Boh, ecco, non me lo ricordo, ma sulle 50 euro il bidone è grande. Poi mi hanno chiesto di meno, era lavabile così tu. Sì. E io ho usato, vabbè, per la cucina va bene anche la tempera. No, non lavabile, semi lavabile. È un bel. Piccano, una cosa del genere, il ragionetto si chiama così. Il bidone è giallo. No, non è giallo, è bianco. Il bidone è bianco. Ma comunque adesso mi ha fatto una specie di melma sopra, verde. Ma la fila di profumi sicuramente anche non si vive più. Eh sì. Ma quanto l'hai diluita? Io lo vedo quando la giro, non è che ci metto per dire un litro d'acqua su niente. io la faccio, ma mano che la dico mi rendo conto se va bene o no. Ho messo l'acqua, ci ho messo io. Dipende. Io non la voglio liquida perché voglio che attacchi bene, che faccia che un effetto completo. Gianni, attenzione che sfoglia, deve farla giusta. Come non mi ha mai sfogliato? Tu vedi a casa, non mi vedi sfogliato di felice. Senti muri, se gliela dai pura sono scatole. Cioè, dipende, deve tagliare un pochettino. Io non glielo dato, non ti ho detto che glielo do pure, ti aggiungo l'acqua, però non la faccio liquida, capito? La faccio un po' più densa del liquido. No, la verità l'ho fatta quanto mi diceva la tabella. Vabbè, ma comunque è fatta così, a me non mi ha mai detto problemi. L'ho sempre fatta così e non mi ha mai detto nessun problema. Quello lì avevo fatto un anno tutte le ringhiere, io lo stenditoio, tutto verniciato, tutte le ringhiere delle porte finestre, ci hanno gustato di sano, tutte le frese così faccio passare, avanti tu. Sto uscendo, sì. Troppo forte pure, sì. Troppo forte pure. Adesso ho la prova. Basta ancora un pochettino, sono le cuffie. Aspetta che abbassi il volume. E già, c'è una come se ti guarda, c'è una. No, non mi senti più. C'è abbasso. No, già ti sento, ti sento. La voglia che ti sento, che bene, che bello. Perché sono con le cuffie, capito? Perché io sono più basso. Sì, più basso, sì. Come mi senti? Ma forte è chiaro. Gabba. Sto usando un macchinetto, mi sto usando. Io con mani un 4 chiavi volgare. Comunque Andrea, io non mi piace ancora di più a noi della chiesa, perché la chiesa rimane leggermente amara. No, a me piace la verità, e chi non la piace. A Calabria non è male. No, ma non ne vuole nessuno già. Se tu porti quella birra, cioè ti inciucate, e la gente è giù, no? Cosa male c'è dentro? Ah, è che comunque c'ha di sciucchere a palle, così l'ha visto. Io perché siete ignoranti. È una questione di gusti anche il tuo. Perché l'Heineken è la birra più signorina. Allora, io mi saluto, ci sentiamo più tardi, adesso non faccio tardi, perché non la giura, quello ora devo lavorare anche. Niente, ci sentiamo più tardi già. Ciao a tu, ciao già, ma dopo, ciao ciao. Ci metto la strada, lascio un culo. Ciao, ciao, ci sentiamo. Sentiamo, e così è già, non ne vogliono, non ne portano nemmeno, manco ci provano a portare perché non ne vogliono. Se tu guardi nei bar, anche, cioè la maggior parte di tutti i bar c'hanno i chinusa, anche non i buoni. Soprattutto in bar dove bevono molto, non anda. Prima ci andavo ad Andrea, io me lo ricordo che nei bar, guarda che ho lavorato da muscola, con la 2P e portavo le bibite nei bar, c'era quel bar che c'è in Via Marmora, ne prendeva 1500 casse di birra, andavamo con tre camion pieni di carichi. Che? Prendeva l'Andrea. Adesso tu giri sempre tutto il chinusa, tutto. Però non quell'andrere in scatole di cartone, prendeva quell'andrere che con le casse di plastica, lì con le è diversa. Sì, hanno danni vuote danno. Cioè. Sì, hai le bottiglie vuote. Hanno tutto quanto. Va tutto il chinusa, tutto. Quando veniva a mettere un vaso di sivaglia, mi scaricavo prima un camion, poi parcheggiavi, scaricavi l'altro, finito l'altro, si apre ancora, non finiva mai. Non lo sai, la folle di birra che si vittime. Facevamo due cartate di quelle un bel alte, ma mani barone. C'era un magazzino che doveva entrare, doveva fare attraversare tutto il bar e poi andare in fondo c'era il magazzino. Scappa. C'è quel bar di Via Tempio, non so se lo sai, il piccolo bar, ma lo sai tu la birra che vende quello lì? Oh yeah! Ma il bar dove vendono più birra? La Sassa di Vecchio, in quei posti lì, dove ci sono i ciscoli. Sì, già ne vende il burro in alcuni bar, cazzo vendene birra, non finire, gli imbriachiri. Ciao, lo so. Rodio, raga. Piago di curo. Dopo entrani. Dai, cazzo. Tutto canto vuoi suonare. Oggi un quasso, lo sai cosa ha fatto? Se vuoi farli lì. Come la della precedenza, della... in quella rotatoria che c'è dove c'è il ponticello via Pasqua, ce l'ha presente, per andare via Pirandè. Ma poi da Verridia, io sono occupato, anche se non sono occupato di una tesi. Ma no. Io se prima non mi pagava a buco. Già, ma che capore tutti i denti, io. E via. Bella. Andava. Avrei voluto andare a vedere tre salvi, ma sono troppo stanco, non vi avvolto. Ma ci sono o non ci sono? Io non lo so. Io la prima parola che ho detto, ma lo so, che stavano facendo il piatto di tutti degli spettacoli, hanno fatto anche i Tazzena, hanno fatto tutti gli spettacoli, stavano facendo degli spettacoli in piazza di tutti. La parola che ho detto. Ma lo sapevo, li hanno fatti dalla scorsa settimana. C'è anche Tazzena. Che lo so, quello già so tutto. Dico, ma è la prima cosa che sento che cosa, capito? già le tre sarde. Ma io non mi fido, dai. Vuoi curarmi la moto, magari? No, non ci vado manco io. Qui andare a cercare di dare. Su, zia, cosa? No, non mi va. Ma infatti, poi proprio a piazza di Turi che ho avuto un avvenimento che è buanto. Sono diciamo a dei carabinieri che con l'ambulanza ci è andato e che deve essere successo qualcosa di grave, perché ci hanno chiamato e c'è una pozza di sangue in terra, questo. Però aspettate a me, perché dice la scorsa volta si è detto scaldabagno sopra. Aspettiamo, arrivano i carabinieri, eccetera, interveniamo insieme, chiediamo cos'era successo, c'era una trentina di persone, nessuno sapeva niente. In terra non c'era nessuno, ma c'era una pozza di sangue, poi abbiamo seguito le tracce che portavano al portone. Poi sentiamo questo grido, saliamo correndo sopra e si è sentita a mano una signora, ma perché? Perché aveva visto quello che era successo prima. Praticamente il genero alla sua si è tirato in testa un marraggio, ma di mani l'hai paccato tutto un capo, per vedere come era ridotto. Già me l'avevi detto già, l'hai detto. Gianni, devo fare bianco un attimino, che devo andare un attimino a prendere una cosa. Ok? Vai. Subito. Faccio questa cosa e riprendo subito. Ma non è tardi, anche se devi andare in magazzino, ma se devi andare più alla pizza, va a dire cose del genere, io giro e poi rientro. Negativo, devo andare a prendere una cosa in magazzino e sto rientrando. Faccio un attenzione, 21 gappa! Anni! Gnocchi, Antonio Bombolo! Hola! Sento Gianni! Hola. Attenzione Gianni, ci sei? Hola. Tu un attimino che cambia affari. Ci sono Cabagara e anche io, come qua Giulia, cosa vai tu, cosa vai? Stanco e cosa sei in figlia? Cosa lavora? Ah, perché stavi titulando, ragione che la fa? E la lampada dovrei chinare. Vabbè già, già sono resistente ancora. Perché quando uno non è abituato a fare un certo tipo di cosa, succede così. Magari che ha allenato pitturendo si rubo le regabombole e gli andrà male. Leggermente mi ha provato, ma più che altro sono stanco, mi hai capito? Mi ha stancato molto, ma non è che mi ha provato assai, no? Allora io un anno mia sorella mi ha detto già, devo chiamare a pitturarmi da casa. E questo qui mi ha chiesto €1.000. Detto, ma fini mira che io vado in fede, dimmi, quando vado in fede te la faccio io. Oh, non trovavo manco a mangiare, in due dire giù tutta la casa del manna, ho fatto tutta la casa, fatta bene tutto. Ho stuccato dove c'erano qualche buchetto, coso carteggiato, fatto. Man mano facevo una stanza, per dire, poi carteggiavo l'altra, nel mentre... A casa di Eric. E fatto sta che anche qua l'ho fatto, non è che non l'ho fatto. E fatto sta che niente, non tornavo manco a mangiare, in due giorni mi sono finito tutto, ma mi sono stressato brutto. Ti crepa, secondo me te lo fai. E comunque già. Basta che qui. E fatti 3-4. Tutto l'anitogramma c'era, il terrazzo fuori. Ha arrivato un po' di travagli anch'io. Quando è fatta bene, poi va, cioè, per un mamma non uno o due anni tiene. Avevo piazzato lo stenditoio fuori nel terrazzo, poi Maurizio mi ha visto usando il trappolo per fare i buchi per mettere i tassetti e ha fatto il lavoro suo. Tuo? Dopo che avevo preso tutto il travaglio, ha pigliato lo trappolo perché mi sta a me usando, si è fatto un buco enorme nel terrazzo. Mi sono tornato a piangere quando ho visto. Fermati, mamma, mi sta saltando dappertutto. Ceres, è capito la farfalla. Ah, è c'entrato anche poco fa qua. Basta che vengono la luce, tu. Va bene, a bicicletta, da tutti i canti le basse. Fa una sbuffia con i baffi, quando prima di attaccare. E da via della bicicletta, la tocante di boh, la bicicletta, da poi si appiccane, a rimanere tutte e due alla carica. E poi se la mangia, perlomeno tutti se la mangia. Loro. Ti fa ridere come fa la faccia. L'altro giorno tutto non la preda niente. Di notte sono passato da lì punti, io ho fatto preda niente. E sono tornato e c'era un cane con una lepre in bocca che lo veniva via Barugutu ed era vivo lì, cazzo la volevo salvare. Mi sono fermato, cazzo, avevo di quei branchi di cani che sono tipo i lupi. Ha detto, ma ragazzi, gli raggavo da bocca, mi sono guffato e mi si stavano avventando addosso. Io la sceglie la strada, ma si vecchia un leparo. Ma ce l'aveva per il collo, ogni abituletto arriva via. Bello lì. Ciao figliaia, maraggiose. E la stanotte, sicuramente c'è qualche cespuglio, l'ho preso. Perché era una greffa di cani, quello che c'è, praticamente c'è il capobranco, no? Era quello che c'aveva la lepre in bocca, e tutti gli altri ha preso. Ci sono entrati sotto, visto dove c'è il mercato all'ingrosso, sono entrati sotto le ringhiere del mercato all'ingrosso, se ne sono andati dentro per mangiarsi. Andiamo già ci hanno maniate e beh ho già pappavano i fammi e cosa. Paraccia. Un'altra volta stavo aspettando Manuela, stavo aspettando l'ora per entrare a prendere la gira, sono andato un po' prima. E c'era del pane in terra, c'erano questi piccioni che lo stavano mangiando. Cazzo, arrivi da risaiata, sotto la macchina, abbia due, barugudu. E ma quella ce l'ho fatta prendere, gliel'ho preso proprio, l'ho fatta scappare, l'ha mollato, no, però era mezzo muso. L'ho portato a casa, c'era ma trubudu mudu, cercato di curarlo, di farlo, è morto dentro la scatola. No. E beh già, loro hanno fame mia, cosa fai? La iatta grande così, più che chi so, la massa si rimagna, non va neanche come. Lo so, il gatto poi è un felino, c'è poco da fare, guarda, era bello vederlo all'attacco, fa come la tigre, come il leone, fa quei passi felpati, piano piano, piano piano. Poi di colpo si butta addosso, questo era bizzigato al primo, la prima, ecco, come stava mangiando il pane, si è saltato addosso. e poco all'occhio mi fa, ma pure è da fare a prendere la 4, la conosco che se più ci appicca a cazzo di mobile che dovrebbe già che sta barballina, ragazzi. Titi, lo sai cosa mi faceva? Si nascondeva, quando era più giovane, si nascondeva dietro le porte. Quando io passavo mi saltava sulla gamba. Allora. E poi faceva il passo tipo il gamba, era all'indietro. Mi faceva troppo ridere. Chissà quando si buona giunga, anche con Nero, vedi, brinca sopra, chi tutto canto è chicciato, poveraccio. Ma non d'accordo adesso? Sì, no, se non c'è lì lo cerca. Praticamente quando non lo vede, sta un pochettino di ore senza vederlo, magari dentro per un micro, cosa fa? Si avvicina e va a cercarlo. Allora quando non lo vede, magari che sotto l'orecchio, sotto la cagliosa, allora comincia. Allora esci Edo, vede che è lì e va a far così. Si fanno compagnia almeno. Era un cuoricato, uno vicino all'altro, mi domino. Io le devo tagliare le unghie, devo trovare un attimo di tempo per tagliare le unghie. Vieni, arrivi tu. Te le tagli tu? No, non ne ho mai tagliato. Un giorno si vede, lo faccio vedere come si fa. Io non gliene taglio. Tu devi prendere la zampa e premerla. Premerla tu come la premi, le unghie escono fuori. Devi tagliare solo le punte, di modo che non ti gratti i mobili. Perché se no, se se ne sente appuntite, ti gratta tutto. Ecco perché tu ti non gratta niente, perché ti taglio le punte delle dita, se le unghie sempre. Ho preso quella farina, ovviamente di giamma. Chi la grassa? Lo usano me. Ma il mio no. So Ceres, mentre lo vedi, stra, cioè in un giro di due dì, no, non venirà più. Io non so che cosa, Titi era appassionato della tavola che usava mia moglie per lavare la roba, infatti l'aveva tutta quanta sgretolata ai lati, si faceva l'inghiri. Ma va da via. Ah, non ce l'ho più, ce l'ho buttato tutto in vasca quanto c'è. Non è trattabile nessuno oramai. Vabbè, ma diciamo che molte cose le lavi con sapone per riuscire più pulite, la cosa intima, il fazzoletti, vabbè che avevi un cane si trattava di bambino, prima si usavano quelli che dovevano stare in tal lungo. Non è trattabile un mucaro pure questo. Ah, per un fazzolettino, per la salvietta che ti pulisce le mani. È vero. Ma prima li usavo anche perché facevano i nudi per ricordarsi la roba. Lo so. Era tutto giambato, Mio padre, se gli dicevi una cosa, si faceva il nodo del fazzoletto. Dico, cazzo, come fare quanti che cosa ti ho detto? No, io me lo ricordo, perché se vederlo lo penso subito che cosa mi hanno detto e mi ricordo quello. Figli, fate gli amici. Erano dei metodi strani, balordi, di ricordarsi la roba, ma era anche quello un metodo. Sì, anche quello lì era un metodo. Mi ha già stato una caccia d'Eva. Stiamo bevendo poco già. E da voi mi ha già fatto i giornali dalla macchina. Ero manco da voi quando finisco con te mi leggo la gazzetta e via, perché oggi non ho avuto manco tempo di leggerla. Ma io giornali leggo tutti quelli che compro mia moglie, tutti quelli di pettegolezzi. Vedi un nuovo la 2000, tutti gli esigente, oggi, tutti qui. Ah, io non ho leggi gli samani che dico Rodone già. No, io preferisco leggere il mio giornale sportivo tutti i giorni. Ero molto anche comprando un babbo, talmente abitudine. Adesso che ho preso l'abitudine di entrare su internet a guardarmi le notizie, così almeno non pago nulla e c'ho il giornale anche lì. No, a me piace, mi piace il giornale, la verità, piace. La nuova la leggo poco, qualche articolo così. Più che altro leggo il giornale sportivo, la gazzetta, quello rosa. E già la conosco, proprio quello che odio io, cazzo, mi piace a me il giornale. Lo adoro, piuttosto che leggere quelle stronzate che c'è scritto finta nella cosa, nella Nuova Sardegna. E vabbè, quando vai in bagno già va bene tutto per leggere e per rilassarsi. Cavè in occhi. No, beh, guarda, ti dico la verità, da quando è proprio l'adoro come giornale, a me piace molto. È una questione di gusti, io non sono molto sportivo, dico la verità. Mio padre lo era, mio padre guardava pugilato, ciclismo, riguardava un po' tutti gli sport, il calcio, era partito dell'Inter. E guai, sai, c'era il casino, ti buttava l'acqua, ti tirava il pane, quello che c'era. Quando guardava le partite sembrava un bulldog. Puntato, un televisore, si diceva che cosa, e non lo smetti! Se si faceva il televisore, cura a terra. Sto quanto era fissato. Si metteva anche una volta, lui aveva la radio con l'auricolare dell'orecchio, dall'altra parte stava guardando il televisore. Mondo visione. È esagerato anche con lo sport. Si alzava anche alle 2 alle 3 di notte per essere più girato. Una persona sportiva, cioè, piace, c'è poco da fare. Anche il ciclismo gli piaceva molto, era molto appassionato di ciclismo. Come compriamo anche giornali sportivi? Ascoltava tutti quei programmi televisivi di sport, tutti si riguardava. Ma sai cos'è? Che molte volte ti capita che magari hai letto una cosa un giorno prima, e si tende a chiedere un po' di tendi e spara un mucchio di cazzate. E poi ti capita che lo tratti da imbecille anche, capito? Comunque ci vuole la passione. Io quando ero ragazzo giocavo a calcio, ero portiere, ero in porta. Ho sempre giocato da ragazzo. Avevamo la Ranger come squadra, Ranger Junior, una squadra del Sacro Cuore, lì giocavamo lì, c'avevamo il campetto, tutto quanto, però poi vederlo era diverso, non mi piaceva vedere la televisione. Chiaro, no, se uno è sportivo gli piace tutto, quello, se uno è veramente appassionato, a me la porta non è che piace molto, a me piace attaccare. Vabbè, prima c'è il ruolo nella partita. A me mi metteva, non importa perché ero bravo a parare, ero grosso e quindi già mezza porta la occupavo. A me io adoro i bomber, me. Allora, tipo Gigi Riva. Giuseppe Rossi, di adesso, Cassano, tutti che cudono un bel. Cassano è sardo, vero? Mi sembra di no. Perché avevo un amico che si chiama Cassano, e all'Avis con me. Si è stato compreso, si fa di un guapo. Cuoco, non so se fa il cuoco, lo sai, non te lo so dire, però era all'Avis, era l'Avis dove ero io a Sacro Cuore. Si chiama Vagolà. Troppo tempo per passato, non me lo ricordo, Cassano me lo ricordo il cognome, e lo zio mi pare che lavorava, giocava a pallone, però non vorrei che mi stessi sbagliando che sia lui. No, non lo so, sicuramente, io ne conoscevo uno, sapevo di uno che era in ambulanza e faceva fare il cuoco. E poi sia lui, poi sia lui. Scappa. Comunque ce ne sono un bel bomber, chi si è ammendiato in un bel? Adesso attualmente uno tra i migliori è cosa? Giuseppe Rossi. Ma Valentino non sta più facendo un cacchio. Valentino Rossi. Rossi. Vediamo se la Ducati fa i miracoli. Lui torna a essere forte. I suoi meccanici devono fare i miracoli. Allora, da quando lui ha cambiato marca di moto, io lo sapevo che succedeva così. Io la Suzuki non la dovevo fare. La Suzuki mi la... come si dice, la doveva mollare. Non la doveva mollare la volta che va prima la restiglio, la rimo che aveva. Guarda che anche questa, ci vuole tempo, ci vuole. Purtroppo. Ma comunque non sta andando, non è male, è male, però non è male neanche. Perché insomma è sempre, arriva quinto, sesto, a volte anche quarto. Cioè, non è che sia malvagio, eh. Malvagio no, ma prima avevo risultati molto migliori. Si stanno cervellandosi per cercare di fare la moto che vada bene. Sono sicuro che nel prossimo anno sono cavoli amari. Ma lui con l'esperienza che ha dovrebbe dare dei consigli. Ma lui non può fare l'ingegnere. E quello è vero, ma gli autisti, tu lo sai, di Formula 1, di coso, praticamente hanno già un'idea di come deve essere. Per esempio a Ferrari hanno capito che cosa era il problema. Hanno chiamato questo Tom Bazzis, mi sembra, questo ingegnere qua, e ha progettato delle sospensioni particolari. Hanno provato queste sospensioni e la macchina sta volando. E a volte hanno nulla, E stanno facendo anche altri aggiornamenti aerodinamici e tutte cose. La macchina sta andando veramente forte questa volta. La competizione con la Red Bull, con la McLaren, cioè sono allo stesso livello, dai, forse anche più forte. Senti, oggi me ne stavo andando, tu? Me ne stavo andando da lavoro alle 7:30, mi ha telefonato il principale, ha detto, dove sei? E stavo andando via. No, non te ne andare che ci sono dei signori qua che devono portare roba sull'imbarcazione, che hanno fatto una spesa un po' grossa e non ce ne sono a piedi e li devi anche accompagnare. Cazzo, ho detto a me, vabbè, già farò in fretta, ho detto, ho preso, ho caricato la roba, ho caricato anche a loro, non se ne comprendiamo un cacchio di civiliziani, erano russi. Ce ne portati al porto, arrivo al porto, cazzo, c'era la polizia portuale, mi hanno bloccato, volevo i documenti li avevo già messi in moto perché me ne stavo andando. E me li sono dimenticati e non mi volevano far passare, loro ci avevano il permesso per passare, io e volevano farmi scaricare tutta l'entrata del porto. Ho detto, ma come fanno? Non è cazzo, è lontano, è un bel di roba, va, passa, mi hanno fatto passare, scaricato, insomma, ho finito le 8, trovo una cosa e l'altra. Via, mi ha rotto le balle. E poi dopo tutta la giornata si è bevuto il fracco, no? Quando lo vedeva di un attimo che andava discendendo, ogni volta è di tutti. Purtroppo già. Lui si sta sempre cercando di tirare più la vendita, perché mi sa che un pochettino avete calato, vero? No, abbiamo aumentato di brutto. Adesso stiamo vendendo alla grande, ma alla grande è brutto, Ci sono sempre tutte le casse piene. Chiaffa. Però già, bisogna considerare che lì non vi siete solo voi, no? Adesso è considerato questo. Ma bisogna considerare che siamo estate, che poi il calo ci sarà sicuramente. L'inverno poi, dopo settembre, comincerà già il calo. Per forza, perché stanno venendo tutti i turisti e tutte le cose, no? Beh, anche quello è. Che è così, perché altrimenti adesso quando comincia a calare che c'è i clienti quelli, allora si sente che cala. Come i clienti rimangono sempre, perché quelli che abitano lì a Pontese la roba la chiedono sempre. Soprattutto quelli che abitano in zona. Tutti. Oggi due consegne, ho consegnato 50 casse di acqua e due consegne. Cosa hai fatto? 25-25? Ho 30 e 20, due consegne, 30 da una parte e 20 dall'altra. Allora sono in misso già, di 50. Cioè sono 30 da una parte e 20 dall'altra, quanto sono? 60. Quanto? 60 casse. Tanto, come ti conti? 30 più 20 quanto ti fa? Ah, tu mi hai detto per la parte e 30 dall'altra. No, io ti ho detto 30 da una parte e 20 dall'altra. Cappacchiata. E in più c'era vabbè tutta l'altra messa, tutta l'altra roba. Per dirti, sono due spese, 50 casse d'acqua. A me che fende il gallo, noi 5 casse di acqua non ci fanno manco 3 giorni. Pure noi me l'abbiamo presa, la stiamo prendendo lì in via Alghero, quello che vende l'acqua. Ma quelli non cambiano? Sì, è nel motocarro il camion, no, la riconosciamo, lo stiamo comprando lì. E dove te ne vai, bidone? Lì, c'è nel negozio, anche dove prendono l'acqua, le bibite. Ma conveniente? Sì, e si compra bene già. Vabbè, questa è buona l'acqua, la paghiamo un po', però non mi interessa. Sto prendendo l'acqua buona. E che acqua è? Pura, bordeggiata. Acqua pura? Dura, bordeggiata. Non la conosco. Una paga non l'abbiamo mai trattato. Ma acqua buona c'è da tutte le parti. La Sant'Anna è una delle migliori acque che ci sono in commercio. No, questa è buona, questa è leggera. Tipo quella che vendete voi, Cisa. Dovrebbe essere la stessa acqua, bottigiata. Comunque, una molta acqua per dire, la Primo con l'acqua Cisa è uguale. No, aspetta, la Primo è a cosa, ma come viene imbottigliata? La cosa viene imbottigliata, la Cisa viene imbottigliata bordeggiata, cioè Tempio, hai capito, è un'acqua diversa, molto più leggera. Poi si equivalgono, tanto si equivalgono. Infatti a me mi dicono che ti va o Cisa o Primo, grande. E così no, è diversa l'acqua. Tu bevi una, bevi l'altra e senti che è un pochettino più leggera. E lo sai che non me ne rendo conto. Beh, ma quando c'ho 7 lui non me ne rendo conto che è più leggera, più pesante. Ma poi tutta la notte si intaiva. Così no. Non so, sarà così, però io non lo sento, non sento la differenza. Quell'acqua è in sapore, in odore, in colore, quindi. Giappa. Però sono acque buonissime, cioè queste che abbiamo noi qua, cioè abbiamo delle acque fantastiche, anche a Macomer, cioè a Tempio. Non lo so. Perché più vicino ce ne sono buone. Vai a Florina, ci sono le fontane, e le acque ben buone, io la prendevo sempre lì, ne prendevo anche 200 litri. Una volta 150 200 litri andavo con la sessione vero, poi la sai che avevo una valvola che quando dovevi caricare bastava che tu rimettessi l'aria dentro e ti alzava gli ammortizzatori, poi come caricavi il carico era alla pari, no? Poi la rimettevi come la prima, ma se mettevo bisogni da 30 a 50 litri dentro un pezzo di nylon e via. Ma buona, scende dalle montagne. Sera fresca, qui è di quella molto filtrata perché è tutto rocca in chili. Ma fino non era buona foresta Burgos o in quelle parti lì. Scendeva quell'acqua che era uno spettacolo. Ma poi era e ma lì non ci vuole più stare nessuno. Non ci vuole più stare nessuno. Perché è già un po' l'offia. No, io questo ho trovato, io sono andato parecchi anni fa, questo ho trovato benissimo. Ma cioè ero in colonia, ero. Ma tutto, cioè giravo l'angolo e c'era la fontana, prendevo quest'acqua per portarmi nella brocca di notte, ma così buona cazzo. Non so, starci così è bello, ma il padre di un amico mio faceva il sindaco lì e gli hanno messo la bomba, gli hanno fatto saltare la porta di casa e loro meno male non erano in casa. Mi hanno fatto a cattivo. No, e gente di altro colore non sopportava quel tipo di colore di partito e si è dovuto scappare con la famiglia. Non so, in Gallura invece quando fai la cattivo succedono questi piccoli incidenti di percorso. In Gallura sono bombaroni. Subito bomba, non vuoi rubricare tutto. E come succede ai cattivi, succede? Addirittura c'è stato una obbia, cazzo, si aveva rifatto tutto il bar dopo che l'avevano bombardato, obbia sulla roba. Beh, si è fatto il bar, come ha finito il costruire, di nuovo l'ho fatto saltare. Beh, così vuol dire che cioè, se stai sul cazzo qualcuno, basta anche che sei, cosa ne so, in ritardo di pagamenti, di cose, ma qualsiasi cosa tu combini, che ti prendono in odio, boh, è finito. Ma. In Corsica, in Corsica la mate si cosa, esatto. So. Con la bassona che conosci Burundu, l'avevo detto, stanotte faceva il custode praticamente di giorno. Ogni giorno faceva il carpentiere in questo palazzo che stavano costruendo e di notte faceva il custode, tanto non dormì, doveva dormire e stava nella stanza a dormire lì e l'hanno avvisato la notte di non dormire, di non andare lì e non fare il custode per quella notte perché se no saltava in mezzo insieme alla bomba. Quindi non bisogna andare già. Un giocatore da dormire a casa che era affatto a questa costruzione, stai inteso, prima ti fanno costruire tutto, quasi quando stai quasi per consegnare andiamo a vedere brincare. No, io cinque poste, quando vedono qualcosa che non li va a genio, già venire a brutta una passata, anche di cui io puro. A chi vuole niente, chi fa la strafottente, se ne prende il lavoro, e poi ti butta con la terra. Quella è la concorrenza, anche bisogna sottarla, non è che basta essere allo stesso livello loro, se per dire lui fa la bombola a un prezzo, basta che tu ti addebbi a pressione, la fai 10 lire più bassa, cazzo, per modo di dire, e credete che viene a te. Ma già veniva voluta una passata, no, non è così il commercio che va avanti, non è così, no. Quando ho 2 euro non rompere palla a nessuno, quando non rompere palla, tu devi lavorare in perdita, non esiste. E in tante categorie c'era voluta una passata. Tanto non lavori in perdita, in base alla quantità venduta poi c'è il guadagno. Nel commercio è così, tra i due che battagliano, i tre che battagliano, c'è sempre l'acquirente che guadagna. Beh, no, è che però non posso morire, ma... E comunque c'è troppa, lo sai perché queste cose succedono? Perché c'è troppa cosa del genere, gente che viene disturbata, si rompono le palle, eccetera, eccetera. Anche per queste cose succedono quelle cose lì. Gente che ha un atto di pazzia, beh, la mamma è rompito le palle, te lo posso dire io. Ma non la ragionano tutti come la ragioniamo noi. Posso? La gente ignorante si vendica così, invece deve sapere affrontare e fare concorrenza al nemico, diciamo. Caffa, ma io dico solo una cosa, non so se sia ignorante, non lo so. Guarda che da noi vengono quelli della corona, di quelli con il terminalino in mano per controllare i prezzi. E chiedono il permesso di poterli controllare, punto, basta. Te lo diamo sempre noi, perché è giusto che sia così. Caffa. Ma magari quelli lì più o meno sono uguali, se non mica non è che cambi molto mica la forma da due. Sì, ci sono le offerte, uno fa l'offerta, l'altro fa l'altra, insomma. Il cliente ha più modo di muoversi, di comprare una cosa da uno, un'altra cosa dall'altro, dove costa meno ve la compra. Io ho preso questa pancetta, ho fatto questi panini con la pancetta, madonna quante erano buone, l'ho fatto qua la Conad. Non ho fatto buona la Conad, comunque anche la Sisa ci hanno fatto buono. Ma ti stavo dicendo tu, purtroppo bisogna adeguarsi coi tempi perché c'è la concorrenza, poco lavoro, quel poco che c'è te lo prende tutto uno, magari facendo i prezzi ribassati e l'altro magari non ce la fa, perché magari il negozio è più piccolo, ne ha di meno negozio. Caffa, è sempre casini, mamma mia. Da oggi, ma lo sai il profumo che c'aveva questa pancetta già? E ci credo. Ah, ma buona, io la sisa non l'ho mai mangiata così buona, la verità. A me la pancetta non mi piace, non mi piace proprio la pancetta affettata, e poi se mi parli di pancetta arrosto la adoro. Ma guarda già. Secondo me se te ne mangiavo un pezzo di questa è pancetta. Perché? Sapore buono, buonissimo proprio. Che sapore è? Profumo pure, guarda, attirante. Prosciutto paria. Ci sei drumente? Oh. Il culo sono. Non li sono. Ma ti stai addormentando? Stanco sono, no, addormentando, ma sono troppo adagiato. Guarda, sono stracco. Allora, ci salutiamo, tu, senti mi sto per avventare, ti auguro un buon fine serata e una buona giornata per la mamma. Saluta babbuccio. Ma Leoncino, sentito l'hai? No, non va più. E se non devi fino a usare in giro, va? Io non so, non ho sentito per niente, io avevo il telefono e non andavo. Ega, poi allora, sicuramente oggi è un apparato. Pagaffa. E allora buonanotte. Buonanotte buona. Ti lascio riposare, dai. Non bisogna, come sta. Cioè, io te l'ho dovuto, non me ne nulla, perché la campi è portarci da te a prestare. Ma dai, io intanto mi leggo il giornale, dai, e via. Quello che non ho letto oggi, ma lo leggo adesso, almeno mi rilasso un po'. No, senti anche. Ma ora faccio 502 aire, eh? Ok, ciao ciao.